Anni 10. Suoni, parole e figure di Stefano Pistolini. Insomma, questa si chiama Vivian Su, no? E per 3 anni circa dai microfoni, dalle antenne qui di Radio 24 è stata la dimostrazione tangibile, che ormai era un dato di fatto, che la Cina si era seduta al grande banchetto dei consumi occidentali, pop music comprese delle canzoncine deliziose come questa che ascoltiamo in sottofondo e che sappiamo tanti fans, tanti ammiratori ha raccolto giusto lungo la sua programmazione. Quindi la Cina e il pop e il 2010 e gli anni 10, e uno che invece viene da molto molto molto molto prima, più indietro. Viene dagli anni 60, dalle grandi battaglie per le cause civili, viene dalla musica americana della strada, dal folk, dagli obos, dal rock, dal ripensamento psichedelico, dal ripensamento religioso. Insomma, Bob Dylan, protagonista assoluto, gli manca solo la statuetta del Nobel per essere definitivamente considerato il poeta laureato della cultura americana dell'ultimo mezzo secolo. Che succede? Succede che Bob Dylan è uno che si annoia, uno che ha un po' il cupio di solvi, no? E quindi una ventina d'anni fa, dopo aver cercato nella religione l'emozione forte per rendere la sua mezza età, ormai poi siamo ben più avanti a 68 anni Dylan, insomma, per rendere un po' più elettrizzante la sua vita, ha deciso di fare quello che lui ha chiamato il Never Ending Tour, in pratica di essere sempre, di vivere costantemente in tournée. E se si vive costantemente in tournée, pur essendo Bob Dylan, succede che a un certo punto anche il pianeta Terra, no, diventa un po' piccolo, perché l'hai passato, ripassato e ripassato tante volte. Lui fa più di 100 concerti l'anno, quindi fate i conti in una ventina d'anni di Never Ending Tour quanti ne ha fatti, però ha sempre bisogno di nuove frontiere, di nuovi posti dove arrivare e suonare, ed ecco che entra in campo la Cina, perché i suoi manager hanno tastato il terreno, c'è stato un segnale di grande interesse da parte degli impresari di Hong Kong, e si è organizzata quella che doveva essere la prima tournée cinese di Bob Dylan. E qui va detta una cosa, va aggiunto un particolare a questa strana storia, che non è detto che in Cina Bob Dylan sia quello che Bob Dylan è in Occidente, più o meno allo stesso modo in America come in Europa, ovvero un monumento vivente alla musica, alla poesia, alla evocazione, tutta una serie di temi che fanno parte di diverse generazioni al punto da diventare trasversali. In Cina, probabilmente nelle metropoli, alcune persone di varie età sanno chi è Bob Dylan, sicuramente nel resto della Cina Bob Dylan è un nome senza significato. Non a caso le date previste per Bob Dylan in Cina erano semplicemente due, naturalmente Pechino e Shanghai, e le venue, i posti dove Bob Dylan doveva, e notate che usiamo l'imperfetto, suonare, erano dei posti di medio calibro, insomma 7-8 mila posti a sedere, perché oltre quello si prevedeva già fin dall'inizio che Bob Dylan non avrebbe riempito, non avrebbe incassato. Step of the way, we walk the line. Insomma, si comincia a pensare, soprattutto sui siti internet rock cinesi, che sono tanti e sono anche piuttosto belli, sono anche stranamente evocativi perfino per noi un po' più grandicelli che ci siamo occupati a suo tempo di rock, perché in quei siti tira un'aria che un po' si riconosce, un'aria di insoddisfazione, di desiderio insoddisfatto nei confronti della musica. Insomma, si aspettano, come succedeva negli anni 70-80 italiani, l'arrivo di tanti musicisti, ma ne arrivano pochissimi, oppure annunciano e poi cancellano, oppure forse vengono e invece non vengono, e poi i biglietti costano cari. Pensate che questa era l'Italia degli anni 70, fatte le debite naturalmente distinzioni. Di fatto, insomma, questa tournée viene annunciata, le due date vengono pubblicizzate ed erano appunto in questo inizio d'aprile, e poi qualche giorno fa invece portavoce della società che avrebbe organizzato i concerti, questa Brokers Brothers Herald di Hong Kong, annuncia che niente Dylan in Cina ufficialmente, perché il governo cinese avrebbe detto no. E qui naturalmente si aprono le cateratte mediatiche, no, della stampa. È cominciato il grande rumore che sempre si rinnova, di questi tempi assai di frequente, attorno alle possibilità, agli avanti e indietro, la marcia del gambero della democrazia in Cina, compresa la possibilità di far suonare questo 68enne, attualmente ottimo giocatore di golf e autore di un ultimo album di canzoni natale, che insomma non somiglia proprio, no, al minaccioso sovvertitore dell'ordine pubblico, al critico feroce della democrazia, delle possibilità della democrazia in Cina, come magari era stata Bjork quando era andata in Cina, aveva fatto dei concerti molto controversi, lanciando slogan pro Tibet dal suo palcoscenico. Si indaga un po', abbiamo indagato un po', abbiamo frequentato un po' i blog cinesi in questi giorni e ci siamo resi conto che in realtà questo è uno scandalo falso, che è poi una ricorrenza di questi anni 10, no? Che Dylan non è stato respinto dal Ministero della Cultura cinese. Dylan semplicemente è stato scaricato dai promoter cinesi, allorché questi signori di questa Brothers Herald hanno venduto ai promoter locali con un sovraccarico eccessivo le date di Bob Dylan, da 250.000 a $400.000 a pezzo. I biglietti sono andati alle stelle e i giovani cinesi, nella buona sostanza, hanno detto: ma no grazie, noi Bob Dylan, sì qualche intellettuale, ma insomma forse l'avrebbe voluto vedere, ma le grandi cifre da quelle parti Dylan non le fa più. È un peccato perché un concerto di Dylan in Cina sarebbe stato comunque un evento. È un peccato soprattutto perché, come scrivono appunto i blog cinesi, attenzione, Dylan sta diventando troppo vecchio, forse non lo sentiremo suonare mai. Come gather around people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the times they are a-changing. Parole. We the people, in order to form a more perfect union, 221 years ago, in a hall that still stands across the street, a group of men gathered and with these simple words launched America's improbable experiment. Questo è il presidente Barack Obama nel intervento del 18 marzo 2008 pronunciato a Filadelfia, il famoso discorso sulla razza, a nostro modestissimo parere probabilmente il punto più alto della sua campagna elettorale, che resta comunque poi nel suo insieme una storia straordinaria ancora da sondare, da capire, da comprendere, da analizzare, forse anche perfino da riusare prima che poi cominciasse la presidenza, dopo la vittoria naturalmente elettorale, la presidenza con i suoi alti e bassi, e forse anche con la umanizzazione, no, del personaggio Obama, con successi ma anche i suoi rovesci. Se ne parla costantemente, non c'è giorno che Barack Obama non sia sulle prime pagine dei giornali, per cui viene naturale porre una domanda che suona più o meno così: un altro libro su Obama? E la risposta è, come dire, allegramente di sì, perché il libro in questione tutto sommato ha una sua necessità, una sua motivazione, ha anche un suo bisogno di esistere. Sono ben 656 pagine, l'editore americano è Knopf, naturalmente il libro è acquistabile via internet, il titolo è The Bridge, il ponte, il sottotitolo piuttosto banale The Life and Rise of Barack Obama, la vita e l'avvento di Barack Obama. L'autore è una firma di grandissimo prestigio oltre oceano, oceano, ovvero David Remnick, che altro non è che il direttore di New Yorker, il più rispettato settimanale di area culturale negli Stati Uniti, l'unico tra l'altro che non abbia subito dei tagli, no? Il grande gruppo Condé Nast ha tagliato a destra manca, ma New Yorker ha detto no, New Yorker non si tocca, come va bene, e quello che spende è ben speso. Il direttore evidentemente riesce a prendersi il suo tempo anche per compilare un libro di questa portata, di questa lunghezza, e come vi dicevo il libro ha delle motivazioni originali, ovvero riesce ad aggiungere qualcosa di nuovo, una lettura originale, una lettura innovativa al personaggio Obama, pur tanto sondato, vivisezionato e raccontato. Il bridge, il ponte in questione del titolo di Remnick è quel ponte simbolico ma anche fisico nella città di Selma, nello stato dell'Alabama, sul quale il 7 marzo del 1965 avvennero dei sanguinosi scontri tra una marcia di protesta di afroamericani e la polizia dello stato, e ci furono anche delle vittime, ci furono una serie di effetti collaterali, ci fu in realtà l'acme dell'inquietudine razziale negli Stati Uniti del XX secolo. E c'è un vecchio congressista americano che si chiama John Lewis, che ha detto una frase che a Remnick è piaciuta talmente tanto da costruire poi a partire da lì questo libro. Ha detto Barack Obama, ha detto Lewis, è quello che si trova in fondo dall'altra parte di quel ponte di Selma. Se lo si riesce a attraversare, se si riesce a superare l'inquietudine che quel ponte simboleggia, si approda alla figura di Barack Obama e a tutto ciò che riesce a concentrare in sé. Quindi, in buona sostanza, e poi vedete se questa lettura, questo accenno che vi do, vi può incuriosire per proseguire nella ricerca di questo libro, nel suo acquisto. The Bridge di David Remnick è un libro che va controcorrente, ovvero è un libro che riporta il personaggio Barack Obama al centro di quella questione, dove al di là di quel famoso discorso che abbiamo sentito in apertura del 18 marzo, il discorso nel quale si sentì in dovere di chiarire alcune cose attinenti al tema della razza, ovvero di smettere di far finta di non ricordare il colore della sua pelle, ma al tempo stesso di voler collocare questo ricordo, questo memento e tutte le cose ad esse connesso al centro di un quadro più ampio, che non voleva focalizzarsi soprattutto sulla razza. Ebbene, Remnick spinge Barack Obama di nuovo nei dintorni del tema della razza, più come effetto che come causa, più che come provocatore, come incarnazione di un modo di essere, di un modo di essere afroamericano, di un modo di essere un prodotto culturale di una nazione che in questo senso, appunto, da quel 7 marzo 1965, quindi in questo mezzo secolo, ha compiuto una lunga strada. Una riflessione dunque originale, e poi tanti spunti, una lettura trasversale che, come dicevamo, aggiunge ancora al personaggio Obama altri particolari di discussione e di approfondimento. It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of the nation. Yes, we can. E allora oggi faremo in questo spazio parole un piccolo viaggio tra luoghi comuni, ma non in senso dispregiativo, in senso di inevitabilità di partecipazione della cultura americana. Il primo era Barack Obama, e questo che ascoltiamo sotto è un luogo comune, no? Quello Yes Weekend, ormai utilizzato anche per vendere scatole dei piselli, ma insomma è diventato uno slogan degli slogan. Ci serve come ponte, come quello di Remnick, per arrivare a un secondo luogo comune, un luogo comune che ci ha lasciato a inizio anno J.D. Salinger. Jerry, per gli amici, è morto, ma da quando è morto se ne parla più che mai, più di quanto se ne parlasse prima, sempre naturalmente in assenza di opere, anche se si annuncia questa pioggia di inediti che da un momento all'altro potrebbe sgorgare da qualche casa editrice americana. Io vi segnalo semplicemente un articolo molto divertente, sebbene riservato naturalmente naturalmente a, come dire, a ossessionati salingeriani, ma è un articolo che per chi ama Salinger è una lettura davvero gustosa, succosa, è nel settimanale New York Magazine e è scritto da Roger Ledbury. Roger Ledbury è un piccolissimo editore di provincia della Virginia, pubblica dei libri con una piccolissima casa editrice, e un bel giorno scrisse una lettera a Salinger dicendo che aveva letto quel racconto, l'ultima cosa pubblicata di Salinger, pubblicata nel numero del New Yorker di qui sopra, no? Il 19 giugno 1965 apparve questo lungo racconto di Salinger intitolato Upward 16 1924, una lettera, un racconto in forma epistolare scritta da un bambino, da un ragazzino assai noto ai lettori di Salinger, che attraversa con le sue parole le esperienze di una vacanza estiva e tutti i ragionamenti che gliene vengono, che gliene discendono. Ebbene, in pratica questo Roger Ledbury propone a Salinger, in modo piuttosto sfrontato, di pubblicare in volume, quindi di far tornare Salinger sul mercato editoriale con la sua piccola casa editrice, e ci va molto vicino, cioè riesce a fare quello che i giganti della editoria americana in quegli anni non sono mai riusciti a fare e probabilmente riusciranno a fare solo ora che è morto. Poi qualcosa si rompe, il meccanismo, l'affare, il deal salta all'ultimo momento, dopo un incontro divertentissimo fra il piccolissimo editore e il colosso della letteratura, che avviene in una galleria d'arte di Washington. C'è tutto il racconto del tremore, il terrore di non sbagliare, di soddisfare il colosso culturale da parte del giovane editore, ma poi c'è lo sbaglio di percorso e l'affare salta. È una lettura molto divertente. L'articolo si intitola Betraying Salinger, tradendo Salinger, sul New York Magazine. Se è pane per i vostri denti, beh, vi divertirete. Bastano queste prime note, no, per capire di che si tratta. Ce la teniamo in sottofondo, la sinfonia, passatemela, questa dei Doors, intitolata The End, che poi è Apocalypse Now, e poi l'immaginario collettivo che guarda al Vietnam. Di Vietnam si occupa in questi giorni, si occupano gli inserti culturali di tutti i quotidiani americani, perché siamo al 35esimo anniversario, scadrà il 30 aprile, della caduta di Saigon, della famosa fuga precipitosa agli americani, no, degli elicotteri che portano via gli ultimi americani in città, e dell'esercito nordvietnamita che contemporaneamente entra a prendere possesso di Saigon. Attorno a questo evento, mai completamente risolto, mai completamente elaborato dalla coscienza condivisa americana, c'è un nuovo fiorire di volumi, tutti presentati in grande spolvero, grande interesse, grande rispetto dai critici americani, e noi ve ne vogliamo almeno segnalare tre, quelli che sembrano essere i più valenti. Due sono dei romanzi, uno è una raccolta, è un diario, è la ripubblicazione anzi di un diario a firma di Tim O'Brien. È il più importante, il più rispettato autore americano sul tema del Vietnam. Il libro si chiama The Things They Carried, ovvero le cose che loro portarono. Tim O'Brien viene ripubblicato 20 anni più tardi dalla prima uscita, questo importante pezzo di memoria americana. Ma i due romanzi sono diversissimi fra loro e io ve li segnalo. Naturalmente per adesso ve li dovete leggere in inglese, ma se il Vietnam è un tema che vi sta caro potrete tentare l'esperienza. Uno esce per St. Martin Press e si intitola The Lotus Eaters, i mangiatori di Loto, è firmato da Tatiana Soli ed è una storia del Vietnam e della guerra in Vietnam vista attraverso gli occhi dei giornalisti, nella fattispecie dei fotografi che andavano lì e poi, come dire, cogliendo, no? Rappresentando, vivendo lo spettacolo che si presentava davanti ai loro obiettivi, non riuscivano più a staccarsene e il Vietnam diventava non solo una guerra ma anche una malattia e certamente una ossessione, e tutto questo è raccontato assai bene da The Lotus Eaters. Il secondo libro invece si chiama, il secondo romanzo scusate, si chiama Matterhorn, un luogo, una location bellica, un posto che non esiste, una casa matta, una fortificazione costruita dai soldati americani e poi conquistata, persa, riconquistata a più riprese in tutta l'assurdità della guerra. L'autore si chiama Carl Marlantes, Carl Marlantes, per questo Matterhorn, sottotitolo Un romanzo di guerra in Vietnam, A Novel of the Vietnam War, è pubblicato da Atlantic Monthly, è un libro nato a 1600 pagine, poi ridotto a 600 pagine e scritto non da uno scrittore di professione ma da un veterano del Vietnam, ed è tutta la guerra vista dagli occhi di chi di quella guerra non è più riuscito a liberarsi, e a tanti anni, a 35-40 anni di distanza, ha ancora la mente piena di nomi, di sigle, di apparecchiature, di equipaggi, di luoghi, di facce, volti, di compagni morti e di tutto ciò che la memoria gli riporta giorno dopo giorno, notte dopo notte, gli riporta alla luce. Quindi vi ricordo ancora Matterhorn e The Lotus Eaters, sono i due romanzi firmati da Carl Marlantes e Tatiana Soli, e poi la ripubblicazione dei testi di Tim O'Brien. Ricordate che se non vi siete riusciti a segnare questi nomi potete ricorrere alla nostra pagina Facebook dove vi diamo i link per poi risalire ai prodotti di cui parliamo. Qualche novità anche per così far riposare, anche far star contente le nostre orecchie in questi inizi, in questo inizio degli anni 10. La prima arriva dalla California, è un disco a nostro parere bellissimo, originale, inatteso e naturalmente gradito soprattutto a chi ama, no, le armonie vocali. È un gruppo tutto al femminile, non so, vi piacevano le Roches per esempio nel passato, bene, c'è qualcosa di nuovo che gli somiglia assai, è un trio di cantanti, di vocalist femminili, si chiamano The Living Sisters e hanno dato alle stampe un album appena uscito, si chiama Love to Live. Loro di mestiere cantano di solito per gli altri o all'ordine di gruppi preformati di cui sono membri, si chiamano Inara George, che fa parte di una formazione che si chiama The Bird and the Bee, Becky Stark, che fa parte dei Lavender Diamond, e Eleni Mendel, che in linea di massima fa la corista. Hanno creato questo strano disco che poi raduna molto del passato vocale americano, il doo-wop, il folk, il jazz, il rock and roll, il blues, ma poi lo coniuga comunque con una leggera distonia, la rende lo attualizza attraverso proprio poi questa macedonia di vocalità che si ritrova una specie di rincorrersi tra tre voci comunque meravigliose. Ascoltiamole ancora The Living Sisters, ecco. Take me up on the Ferris wheel. There's something soft that you ought to feel. alcuni di voi saranno innamorati di queste voci. Vi ricordo ancora il nome, si chiamano The Living Sisters, l'album si chiama Love to Live ed è una cosa nuova, no? Il mestiere di anni 10, questa trasmissione è segnalarvi cose che magari non fate in tempo a vedere, sommersi dalle proposte di consumi culturali e non solo, e questo secondo me invece è un nome che vale la pena appuntarsi, come vale la pena decidere se rituffarsi o no nel nuovo grande processo del secolo. Circa una volta l'anno gli americani lanciano il processo del secolo, perché poi dopo sopra ci costruiscono programmi televisivi, documentari, articoli, numeri speciali e quant'altro. Sta per partire il nuovo processo del secolo, le fotografie che lo evocano a me sono sembrate identiche a quelle di O.J. Simpson, anche perché il protagonista ha praticamente la stessa faccia di O.J. Simpson, speriamo non le stesse colpe. Lui è il dottore Conrad Murray ed è dovrà difendersi dall'accusa di responsabilità nella morte di Michael Jackson, rischia alcuni anni di galera se il giudice lo riconoscerà colpevole di aver causato, attraverso la somministrazione di un potente anestetico narcotico, la morte della pop star. È cominciato il processo, è stato rimesso in circolazione, ha dovuto pagare una cauzione di $75,000, ha mantenuto la sua autorizzazione a esercitare il proprio mestiere, ma per ora non gli è stata riconosciuta invece l'autorizzazione a somministrare anestetici. Un po' inquietante. E lui lo chiamava Thriller, e qui siamo di fronte a un thriller, anche se tristemente postumo, che riguarda Michael Jackson. L'ambientazione quindi è la stessa, la solita, la corte criminale di Los Angeles, quindi rivedrete, e già se frequentate le televisioni americane, magari via satellite, rivedete quell'aula, la stessa o una uguale a quella dove è avvenuto il processo di O.J. Simpson. Ci sono i soliti fan fuori della porta che battono le mani alla famiglia Jackson e invece fanno i boo e i fischi quando arrivano i cattivi del caso, che sarebbero naturalmente il dottor Murray e il suo strano, molto capelluto avvocato che si chiama Michael Flanagan, che ha ottenuto comunque un piccolo successo iniziale nella causa, appunto mantenendo al dottor Murray la possibilità di esercitare il suo mestiere. Murray si è presentato come praticamente rovinato, conti da pagare per tutto, se non mi fate esercitare sono sul lastrico. In realtà risulta che abbia cliniche in mezza America, Las Vegas, Houston, in California, ma insomma questo 57enne dottore che i ben informati pare sostengono abbia elaborato una tesi difensiva piuttosto solida, così non ha un aspetto proprio simpaticissimo a prima vista. Potrete seguire o non seguire questo processo, sicuramente internet se ne occuperà assai. Intanto trapela, e questa è l'ultima cosa che voglio raccontare al riguardo, dopo una tra l'altro drammatica intervista di Oprah Winfrey alla sorella più cara di Michael, Janet Jackson, che ha accusato pesantemente il dottor Murray, ha detto sì, io sono convinto che lui sia responsabile della morte di mio fratello, quindi una pietra, veramente un macigno sull'inizio di questo procedimento. I ben informati fanno sapere sui siti dedicati che Murray avrebbe una sua teoria per spiegare la morte di Michael Jackson. In sostanza lui avrebbe sì somministrato dell'anestetico a Michael Jackson, che era dipendente da questo anestetico, per riuscire a dormire, poi avrebbe lasciato momentaneamente la stanza. Michael sarebbe risvegliato per qualche istante e si sarebbe autosomministrato una overdose dello stesso anestetico, in sostanza suicidandosi per volontà o semplicemente per disattenzione, per distrazione. Reggerà questa tesi? Lo sapremo seguendo le puntate, le gesta di questo processo, che però, vi avviso, ha tutti i crismi del terrificante, no, tormentone mediatico americano. Uno strumento così ricorrente, così comune come la chitarra acustica, eppure suonato dal duo dei Touring Brakes, i freni di Torino, ha un suono particolare, riconoscibile. Loro hanno dato veramente un'impronta tonica, un tono, un timbro al proprio suono. Si chiamano Holly Knights e Gail Paradajan. Hanno pubblicato un nuovo album, recensito così così dai settimanali e dai magazine via web specializzati, si chiama Outburst. A noi è sembrato piuttosto bello, ve ne facciamo ascoltare un pezzo. Pensiamo che sia ancora una ipotesi credibile di musica acustica, no? Coniugata attraverso quel gusto inglese che discende dal folk, ma poi è passato attraverso tante altre esperienze. Questi sono i Touring Brakes. Figure. Questo è Paul Simon, Kodachrome. Dovete scusarci l'associazione un po' libera che abbiamo fatto per introdurre un tema particolare, no? In quanto nell'area figure di anni 10 il tema è la Polaroid, ma una canzone sulla Polaroid non l'ha mai fatta nessuno. Allora ci siamo un po' rimessi, no? Sintonizzati sulla fotografia. Per quello che era in quel periodo, no? 60, 70, 80, quando le nuove cosiddette tecnologie apparivano all'orizzonte dei fotografi amatori, come eravamo un po' tutti, e c'era il Kodachrome, no? Questo colore, queste pellicole colore fatte dalla Kodak, così brillanti, divertenti, luminose, aiutavano anche i fotografi meno esperti. Però poi c'era quella macchinetta che era qualcosa di più, era qualcosa di come dire, magico. Lì veramente la tecnologia, altro che mica c'era internet, insomma, lì la tecnologia proprio ribolliva, ed era la Polaroid. Tu facevi la fotografia stando ben attenti a sparartela bene, perché costavano un sacco di soldi, i rullini ce n'erano dentro mi sembra una decina, quindi bisognava scegliere con cura il soggetto, e poi la fotografia nasceva nel palmo della tua mano. Tutta roba, no, di ieri, l'altro ieri, in realtà roba di fine XX secolo, ma completamente sepolta dalla tecnologia, quella nuova davvero. Quella che ha ucciso anche la pellicola, che ha cambiato il modo di fare fotografie, adesso ne fai quante te ne pare, le salvi sulla cartina, insomma tutte cose che sapete benissimo. La notizia però è che la Polaroid, dopo essere morta ufficialmente un paio d'anni fa, sconfitta dalla mancanza di vendite e dallo spostamento del mercato, adesso sta rinascendo. È nata attraverso una piccola società austriaca che si chiama Impossible Project. Sono tre appassionati, ma anche tre businessmen e una signora anche, che si occupano di fotografia, che hanno lavorato all'interno della Polaroid e credono in un possibile futuro di questo formato, e sta ripartendo la Polaroid. E siccome la Polaroid è sempre stata poi specializzata proprio nell'andare molto avanti, nello spingersi molto lontano, c'è da giurare che la nuova Polaroid potrebbe, soprattutto se trova i partner giusti, acquisire, come dire, delle capacità inattese. La cosa che sorprendono sono due. Una è che la Polaroid è riuscita a stringere un patto promozionale, a crearsi una liaison affaristica, niente meno che con Lady Gaga, la figura della pop culture americana al presente più chiacchierata, più commentata, più osservata, è diventata la testimonial della nuova Polaroid, il che significa che, come dire, c'è fuoco sotto la cenere, l'affare si farà. E il secondo invece la seconda divertente informazione che vi posso dare, nel caso siate utenti Mac di iTunes e quant'altro, è che nel frattempo su iTunes è uscita un'application divertentissima che fa le foto Polaroid, e segnatevi il nome, perché come al solito è commercializzata a pochissimi spiccioli, e si chiama Hipstamatic, come una matic hip, ovvero alla moda. Allora, la Hipstamatic app fa le fotografie, vi fa le Polaroid come se si fosse negli anni 60, con quei colori, quelle sbavature, quel seppia, quel rosa, quel giallo, ma poi la macchina magica da un momento all'altro potrebbe tornare a creare figure per tutti noi negli anni 10. Oh, you just put in your mouth card, that usually means we're not gonna... Oh, oh. How lucky can one guy be? We can still fool around. Really? Let me just get my head around it. Honey, it's fine. Let me do some... Sì, sì, questi fanno finta di consumare una cenetta a due chic in un locale di Manhattan, sono in realtà sull'orlo di un incubo. Allora, è uscito un film interessante in America, perché comporta, al di là del valore del film stesso, tutta una serie di discorsi, ne parliamo per un momento. Si chiama Date Night, la sera dell'appuntamento, possiamo tradurlo così. I protagonisti sono due supercampioni della televisione americana, e questo è il discorso numero uno, della televisione americana brillante, quella da ridere, quella comica, quella di Saturday Night Live, quella dei migliori, più spiritosi, più intelligenti serial di questi ultimi mesi. I due in questione si chiamano Steve Carell e Tina Fey, probabilmente sapete di chi parlo, soprattutto Tina Fey con quella imitazione riuscitissima di Sarah Palin, si è guadagnata copertine in tutto il mondo. I due si sono una volta tanto consociati e trasferiti sul grande schermo per fare un film brillante e assai mosso insieme, e la critica ha applaudito tantissimo, ha applaudito loro, non il film, che anzi viene riconosciuto come un po' banalotto, come un po' troppo prevedibile nel solco di tanti film di questo genere. Però i due sono comunemente giudicati come straordinari, divertentissimi, eccezionali, c'è da pentirsi, scrivono parecchi critici, soltanto che non abbiano a disposizione dei copioni migliori, e anzi pare che le parti migliori del film in questione, di questo Date Night, siano state letteralmente improvvisate da Tina Fey e Steve Carell sul set nel corso delle riprese. Il plot, l'intreccio del film è un po' il solito, ovvero una coppia suburbana comincia un po' a annoiarsi, no? Si sta un po' consumando nella sua routine, decide di passare per iniziativa di lui una serata particolare a New York in un ristorante alla moda, e lì cominciano i guai. La prenotazione non c'è, fregano il tavolo a un'altra coppia, lo fregano alla coppia sbagliata, e lì, diciamo così, se avete visto tutto in una notte, potete un po' prevedere che cosa può capitare a questi due disgraziati, la cui notte a New York si trasforma naturalmente in una corsa, no? nella paura, nel terrore, con personaggi oltre genere. Tra l'altro ci sono partecipazioni molto, molto divertenti nel film, c'è Mark Wahlberg, c'è James Franco, c'è Mark Ruffalo, Ray Liotta, insomma tutti gli amici si sono consociati. Ma la morale della favola è che uno dei motivi della crisi della commedia americana nella ultima produzione cinematografica di Hollywood starebbe proprio nel fatto che i talenti migliori attualmente lavorano in televisione, e da lì andrebbero ripescate. Ci riusciranno, non ci riusciranno? Di sicuro la TV americana in questo momento chiama di più, forse paga anche semplicemente meglio. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Wake up! Allora, ci risiamo con i Doors, li abbiamo intrasentiti poco fa quando abbiamo parlato di Vietnam e c'erano Jim Morrison e soci con The End a musicare la nostra rassegna di nuovi titoli editoriali dedicati al Vietnam. Qui ne parliamo ancora una volta fuori contesto, non per parlare di musica, ma in questo caso per parlare di cinema, perché si sta avvicinando l'uscita in DVD di un documentario dedicato ai Doors, che vale la pena di segnalare perché è assai particolare. Prima di tutto il narratore, la voce che avete sentito prima, è niente meno che Johnny Depp, e scusate se è poco, insomma, se uno si prende Johnny Depp come narratore, come dire, parte bene il progetto, parte bene la firma, è interessante. Soprattutto gli amanti del cinema indipendente americano la riconosceranno, è quella di Tom DiCillo, uno che ha lavorato anche con Brad Pitt quando era ragazzino, tanto per dirne una, un regista molto alternativo ma capace di confezionare nell'ambito della produzione americana. Si è appassionato alla causa dei Doors perché ha scoperto che in circolazione c'era un sacco di materiale inedito attorno alla band, che è durata solo poco più di 4 anni. È vissuta in un periodo, diciamo, pretecnologico, no? Dal punto di vista delle riprese e così un po' rubate, dei telefonini, delle videocamere e quant'altro, parliamo del periodo 66-71, però è stata al tempo stesso molto rappresentata, molto effigiata. C'è un sacco di materiale video o cinematografico dei Doors a cui si poteva accedere. Tom DiCillo l'ha fatto e ha costruito la storia della band intitolata When You Are Strange, quando tu sei strano, un film sui Doors è il sottotitolo, incentrandolo naturalmente sulla figura di Jim Morrison, sulla figura soprattutto carismatica di Jim Morrison, sulla figura anche narcisistica di Jim Morrison, sulla figura sopra le righe, sulla figura eccezionale, ma sulla figura che non poteva non piacere, non affascinare, non stregare i giovani dell'epoca e non spaventare e far innervosire, far arrabbiare, farlo odiare invece dagli adulti americani del tempo. È tutta dedicata a Morrison e a questo suo estrionismo, talvolta anche ridondante, eccessivo, esagerato, a questo ego più grande, no, dell'Empire State Building di Jim Morrison, ma comunque il film poi raggiunge il suo scopo, il documentario raggiunge il suo scopo, si resta inevitabilmente stregati da Jim Morrison. C'è anche una parte dedicata alla morte dell'artista a soli 27 anni a Parigi, dopo che aveva avuto dei seri guai con la giustizia in America, ma su questo DiCillo, come dire, va leggero, non vuole fare una inchiesta sulla vera storia di Jim Morrison, vuole semplicemente analizzare, godendo di materiale originale straordinario, la nascita, l'ascesa e così la permanenza nell'area americana di un grande mito. E appunto miti americani snocciolati lungo tutta la puntata di oggi di anni 10, no? Bob Dylan, Barack Obama, che mito già lo è, Salinger, i Doors, il Vietnam, Michael Jackson, avete capito più o meno che aria tirava. Se avete bisogno di risalire a qualcuno di questi prodotti potete farlo alle nostre pagine Facebook, che sono due, si chiamano Anni 10, quella per conversare con noi, e Anni 10 Radio 24, quella in cui trovate tutti i contenuti di cui abbiamo parlato. Poi abbiamo anche una mail, che è anni10@radio24.it. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, in regia Valerio Rocchetti. Ci sentiamo tra una settimana qui da Anni 10. State tutti bene.